colore sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. E buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima, che come sapete ogni lunedì va in onda dalle 21 alle 22, e questa sera abbiamo con noi The Voice, abbiamo Carla The Voice Italy abbiamo Carla che come avrete riconosciuto è la voce della nostra sigla dei Colori dell'Anima, del nostro stacchetto musicale. Ce lo vuoi fare in diretta? Anche no, stasera sono Rosanna, non mi tentare, sono in una veste seria, cerco di far finta di sembrare anche una persona colta che ogni tanto fa altro, quindi stasera non mi smascherare. Va bene, d'accordo, stasera tutto serio allora. Serissimo. E a proposito di serietà, voglio anche presentarvi tre ospiti che sono venute in realtà solo per ascoltare, quindi sono delle faranno parte, diciamo, del pubblico, però se vogliono intervenire nel corso della trasmissione naturalmente sono le benvenute. Io comincerei con Sonia. Buonasera Sonia. Buonasera a tutti. Poi passerei a Marisa. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Per finire con Titandra, pensate che nome originale che ha questa ragazza. Buonasera Titandra. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, dunque, quindi queste nostre ospiti sono qui a farci compagnia, sono venute a vedere la nostra radio, Radio Alma 101.9, e sono venute appunto a parlare, ad ascoltare, eventualmente anche a fare delle domande sull'argomento che tratteremo oggi, che è quello della usura e racket, che sono delle parole che già di per sé terrorizzano, fanno paura, anche perché rappresentano una realtà purtroppo molto brutta del nostro paese e probabilmente neanche solo del nostro paese Italia. Ad ogni modo, perché parliamo di questo argomento così serio, come diceva Carla? Perché è stato un suo argomento di studio di cui si è occupata all'università, naturalmente in una popolazione ben definita, in un periodo ben definito, ma però appunto ci sarebbe utile avere il suo punto di vista e sapere che cosa così hai scoperto, cosa hai trovato. Che suspense, Rosanna, mi hai fatto una presentazione da Oscar. Sì, infatti. Ma chissà, allora spero di riuscire in maniera più o meno chiara durante quest'ora di parlarvi un po' di quello che è stato l'oggetto di studio nel 2008 della mia tesi, quindi parlerò dell'usura del racket nel casertano, ma anche in maniera un po' più generale, quindi un po' più teorica in generale dei due concetti, e poi per terminare con una ricerca sperimentale nel casertano in particolare. Va bene, quindi quanto tempo fa hai fatto questa ricerca? Allora, è iniziata a fine 2007 ed è terminata nel 2008, quindi più o meno è durata un anno, con due mie colleghe che hanno anche loro somministrato questionari, ci siamo fatte vari chilometri in macchina per cercare di trovare commercianti volenterosi a compilare il nostro questionario. Ne sono successe di tutti i colori, chi diceva che c'era caduto il caffè sopra, chi che il bambino l'aveva strappato, insomma molta riluttanza, molte resistenze, però siamo riuscite nella nostra somministrazione di 305 questionari. Benissimo. Allora, scusate, dunque, vogliamo ricordare un po' che cosa fai tu qui alla radio, perché ovviamente chi ascolta I Colori dell'Anima il lunedì sera già lo sa, però insomma anche tu fai questa trasmissione, giusto? Sì, allora, il lunedì scorso siamo andati in onda e come tutti gli ultimi lunedì del mese io, Angelo e Giampaolo siamo in onda dalle 21 alle 22 qui ai Colori dell'Anima, e Colori dell'Anima fa un po', parla dei vari aspetti dell'anima, delle tonalità, dei colori, degli umori, e cerca anche di trasmettere attraverso mezzi vari dei messaggi, quindi può essere la storia di qualcuno, che può essere un argomento teorico, politico che può essere un dibattito su un concetto intellettuale o anche meno, o anche semplicemente una volta dibattito tra albero di Natale e presepe, quindi veramente diciamo argomenti di ogni tipo ma sui quali cerchiamo di lasciare e lanciare un messaggio. Benissimo, allora prima di entrare nell'argomento io volevo ricordare intanto che la nostra radio, quindi 101.9 Radio Alma, si può ascoltare evidentemente in diretta sulla frequenza, quindi 101.9, ma potete ascoltarci anche su internet al sito appunto di Radio Alma andando sulla icona direct, e quindi direttamente si può, ci si sintonizza su Radio Alma, e potete ovviamente anche scriverci al la nostra email che è icolori dell'anima@radioalma.eu. Potete scriverci per fare commenti sulla trasmissione, anche su argomenti che vorreste ascoltare alla radio. Io comunque proporrei una piccola pausa musicale, se sei d'accordo, e poi entriamo nel vivo dell'argomento di oggi. Rosanna, con questa tua voce come potrei dire di no? Mi stai calmando. Va dopo bene. Una giornata così lunga. Bene, bene, ascoltiamoci questa canzone. Va bene, allora mi raccomando, rimanete sintonizzati. Noi ritorniamo fra pochissimo, sempre con I Colori dell'Anima. Malika Ayane ai Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9, mentre sono le 21:10 di questo 3 di marzo. Allora, stiamo parlando di un argomento molto serio, molto grave, un argomento che terrorizza, perché è una realtà che purtroppo esiste e che è difficile da debellare, ed è l'usura e il racket, due fenomeni effettivamente molto legati l'uno all'altro, e Carla qualche anno fa si è occupata di questo argomento. Allora, intanto, magari se vogliamo spiegare di che si tratta, perché sono parole che forse usiamo spesso, sentiamo spesso al telegiornale, ma non sappiamo neanche bene di che si tratta. Vogliamo cominciare? Come no? Allora, innanzitutto quello che forse ho dimenticato di dire che la mia tesi era una tesi nell'ambito della psicologia sociale, quindi nel corso di una laurea in psicologia, quindi è un po' in attesa come cosa, magari la maggior parte, l'80% delle lauree dei laureandi in psicologia ha un taglio molto più clinico, eccetera eccetera, però diciamo mi è stata proposta questa tesi nel 2007 da parte della mia professoressa La Boldri dell'università della seconda università degli studi di Napoli appunto di psicologia, e mi ha toccato, nel senso, ho detto ma perché non partire dalla mia terra, quindi dai problemi che come cliché sono legati alla mia terra, quindi a Caserta, alla Campania, e perché non fare una tesi di ricerca, che magari non mi ricapiterà mai più nella mia vita, cosa molto probabile, e ho detto ma sì, dai, perché no, e quindi mi sono lanciata in questo progetto insieme ad altre due colleghe. Ed è stato molto molto interessante, perché ci ha consentito anche di conoscere persone personalmente toccate a questi due fenomeni. Allora, Rosanna mi chiedeva teoricamente, concettualmente, di definire questi due concetti, appunto, e se legati o non legati. Questo sarà poi un po' uno dei risultati della ricerca, se questi due concetti sono legati o meno. L'usura, ovviamente, stiamo facendo riferimento a prestiti a tassi assolutamente non regolamentati, in maniera non ufficiale, mentre il racket è la cosiddetta estorsione, cioè quella in cui una persona senza alcun titolo si presenta nella vostra attività commerciale e vi chiede una tassa, e diventa il nuovo stato, lo stato al quale si devono delle tasse, e le modalità con cui l'uno e l'altro si imporranno nelle loro tasse rispettive è quello che poi contraddistinguerà anche la parte descrittiva della tesi e che appunto tende a definire il legame tra i due, sia a livello della regione, cioè nel senso se è legata a una certa regione dell'Italia o meno, se i due fenomeni sono correlati, come si presentano, eccetera. Va bene come suspense, Rosanna? Molto, molto. Quindi spesso le persone sono le stesse, cioè sono usurai e sono anche... Non necessariamente, e anche se molto probabilmente sono persone che appartengono alla criminalità, però non sono necessariamente le stesse, anche se c'è tutto un gioco dietro che ovviamente non è chiaro, però come vedremo nel corso della... Comunque, io mi immagino, almeno così, da quel poco che conosco di usura e racket, che chi pratica queste, come dire, attività è troppo gentile, è troppo educato, si presenta con lo stesso spirito, cioè ti dice ti voglio aiutare, quindi chi viene nel tuo negozio e ti dice io ti offro protezione, non è che tu mi paghi così perché devi farmi arricchire, no, perché io ti proteggo. E lo stesso chi ti dà i soldi in prestito, quindi l'usuraio, ti dice io sono gentile perché vedi la banca non te li dà i soldi, io te li do. Quindi secondo me alla base, a monte, c'è un atteggiamento, diciamo, di aiuto nei tuoi confronti, e questo una persona disperata probabilmente, che magari in un caso se lo cerca, in un altro no, ma cade in questa trappola purtroppo. Sì, quello che tu dici è abbastanza vero, anche se ecco la formula è assolutamente diversa, ci sono delle sfumature, perché nell'usura che cosa accade? Diciamo che innanzitutto il profilo della persona che cade nell'usura è molto diversa da quella della persona che deve pagare il racket. Quella che paga il racket è uno qualsiasi, cioè uno dei commercianti, e si è visto nella ricerca che quanto più l'azienda è grande, quanto più la probabilità che si presenti qualcuno è elevata. Quindi però è uno, cioè è uno a livello personale, non ci sono caratteristiche che abbiamo visto o constatato. La vittima dell'usura ha invece un carattere, ha un profilo un po' più specifico, ossia molto probabilmente è una persona che non ha grandi capacità in ambito di contabilità, di immaginazione di quello che sarà una contabilità futura, quindi ha comunque qualche carenza a livello gestionale, ed è una persona più insicura, è una persona che si rifugia molto di più dietro gli altri, mentre ecco, quello che paga il racket è veramente uno qualsiasi, potrebbe essere così, ma come potrebbe essere un buon manager, una persona che ha un'attività, anzi quello che va a chiedere il famoso pizzo, come si dice in Sicilia, è uno che ha capito che quello ci sa fare, quello ce l'ha i soldi per pagarti, mentre quello che va a chiedere il prestito in banca, il poveraccio, diciamo. E poi si è visto, c'è un altro fenomeno, che molto spesso diciamo quell'usurato va in banca, la banca, soprattutto negli ultimi periodi in cui c'è sempre più crisi e i prestiti si fanno con molta più difficoltà, gli viene rifiutato questo prestito, guarda caso in banca qualche volta può capitare che ci si passa l'informazione, ed è attraverso la banca stessa o comunque qualche sistema dietro la banca che all'azienda di questo poveraccio, insomma, gli si presenta qualcuno che finalmente, quindi dopo che la famiglia ha rifiutato il prestito, la banca ha rifiutato il prestito, gli amici, finalmente qualcuno che l'ascolta e dice finalmente c'è qualcuno che mi aiuta, ed è questo infatti. Il problema, ma mi stai facendo arrivare al cuore, no, ma quello che mi ha colpito è proprio questa la vittima, ed è questa la grande differenza rispetto al racket. C'è tutto un lavoro psicologico molto più fine in cui te lo cucini praticamente, perché piano piano viene a sapere quando arriva la merce, quando devi pagare l'affitto, quante case c'hai, e lo scopo dell'usuraio è quello di diventare proprietario dell'attività della sua vittima. insomma è un meccanismo ben differente da quello del racket, che vuole gente che ha aziende che vanno, che funzionano, ecco, che guadagnano. Quindi per loro devono funzionare, certo. Sì, quindi perché... questa è stata una delle più grandi, diciamo, conclusioni? No. Sì, e anche osservazioni. Sì, perché poi la nostra ricerca si aveva lo scopo più di dividere il casertano in tre settori, una zona fredda, una zona calda e una zona tiepida, e di vedere che effettivamente queste tre zone erano in contatto differente, appunto, secondo le nostre previsioni erano freddo, caldo e tiepido. Quindi diciamo che alla base della tua tesi c'era già una conoscenza che marcava delle differenze fra le zone. Sì, un po' dei della cliché provincia di Caserta. Che si sono verificati. Quindi veri. Calda vuol dire dove effettivamente voi avreste riscontrato più casi di usura e racket, significa? Sì, sì, sì. E al contrario fredda, dove ce n'erano di meno. Assolutamente, sì, sì, sì. E per esempio questa correlazione c'entra, che ne so, con la densità della popolazione, che magari in un centro abitato ce n'è di più e in campagna c'è di meno, che ne so. Allora, ovviamente sì, comunque sì, in parte sì. Comunque saranno poche le persone che conosceranno forse il casertano, che già ha questa nomea bellissima. Comunque la Reggia di Caserta, però tutti conoscono la splendida Reggia Caserta di Caserta. Vecchia, Caserta Vecchia è un borgo medievale fantastico. Comunque, allora, questa zona di Caserta abbiamo scelto come zona tiepida il centro di Caserta, il Casa Giove per chi conosce Casa Pulla. La parte fredda era appunto quella che dicevi tu, Rosanna, quindi campagna, nel senso quindi densità di popolazione più bassa, era quella fredda che va un po' lato montagna, quindi un po' più interno, e la zona calda era quella al confine col napoletano, quindi a Fragola, Casoria, che se vuoi è un po' anche quella della zona dei fuochi, eccetera, della terra dei fuochi, eccetera, eccetera. Quindi, però all'epoca non lo sapevamo, infatti, no, nel 2007 non li accendevano i fuochi, ma insomma magari i residui pericolosi c'erano già nel terreno. Sì, era semplicemente non risaputo, ma insomma, quella è la famosa zona calda, sì. Va bene, allora senti, io proporrei ancora una piccola pausa. Che ci fai sentire, Rosanna? Allora, stavolta vi faccio sentire un cantante che non conoscete, però è molto bravo. Si chiama... E se lo conoscessimo? Luigi Friotto. No, c'ha ragione. È un cantante abruzzese. Ecco. Ho detto tutto, delle mie parti, che poi sarebbero anche le parti delle mie ospiti di Sonia, Marisa e Titandra. Comunque, insomma, adesso vi faccio ascoltare questo brano. Se dopo lo conoscete, mi direte voi, a fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima, con l'ospite Carla, che stasera ci sta parlando di usura e racket. Fra pochissimi minuti. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I Colori dell'Anima. E questo era Luigi Friotto, ma ho scoperto che le mie ospiti lo conoscono, giusto? Sì, quest'estate abbiamo visto proprio un concerto in più vicino. Locazione bellissima, veramente, una zattera con tutti questi musicisti che accompagnavano proprio questo ragazzo. Devo dire, veramente eccezionale, uno spettacolo bellissimo. Va bene, vedi, c'è qualcuno che lo conosce, io ho detto che non lo conosce nessuno, naturalmente scherzavo, volevo provocare. Allora, ritorniamo al nostro argomento serissimo dell'usura e del racket. L'usura, ma esiste da tanto o è un fenomeno recente? Guarda, mi ha colpito un pochettino fare un excursus storico su questo concetto e vedere che, insomma, i prestiti ci sono sempre stati, niente, cioè non c'è niente da fare, esistono dai tempi dei Sumeri, che non so quando ci stavano questi Sumeri, però insomma dai Sumeri, Persiani, Babilonesi, Fenici, c'è una prima traccia nel codice di Hammurabi nella Mesopotamia, c'era nell'Egitto, tutto e diceva che era massimo del 30%, cioè oddio aiuto, e se non si pagavano si poteva diventare schiavi addirittura della persona che ti aveva fatto questo prestito. Ci sono Aristotele e Platone che ne parlavano nei loro libri, insomma, nell'antica Grecia, le famose versioni per chi era al liceo di Aristotele e Platone, parlavano già dei prestiti, poi anche nell'antica Roma, i famosi argentari della gente Domizia, che si pensava che erano monti dove c'erano pezzi d'argento, no, erano semplicemente persone, cambiavalute, che appunto facevano prestiti, erano questi famosi argentari di Roma, della zona domiziana. E ancora più tardi lo vedremo negli Annales, anzi sempre il periodo romano, negli Annales di Tacito, Catone, insomma, storicamente ci sono tante tracce dell'esistenza dei prestiti. E cosa interessante, anche nei popoli più religiosi quello che regolamentava i prestiti erano i testi sacri, quindi per esempio nel Deuteronomio, nell'Esodo si parla, si incoraggia piuttosto al prestito, però ovviamente non approfittandone. Quindi gli ebrei, insomma, cercavano di come buoni credenti, cercavano di rispettare anche questo perché faceva parte della loro fede. Poi nel Medioevo non si capiva, cioè sono un po' di cose ambigue su questo concetto dell'usura, quindi non ci sono notizie particolarmente chiare. Più tardi Dante Alighieri ne parla come i grandi malfattori, questi che prestavano, quindi li mette all'inferno. E poi per esempio sono nati più tardi, più o meno nel 1400-1500, i Monti di Pietà, che erano dei monti di pegno, i famosi pegni, no? Dove nel frattempo si ricevevano dei soldi in prestito e nel frattempo si dava appunto un pegno che poi si recuperava nel momento in cui si restituivano i soldi, e quello che poi era anticamente il Monte dei Paschi. Poi vabbè, le cose sono un po' cambiate, c'è Shakespeare che ha scritto Il Mercante di Venezia, insomma tanti ci sono tanti testi letterali che ne parlano. E poi quello per che non è parlare curioso, del film Miseria e Nobiltà, dove c'era Totò che no? Si era aveva fatto portare, non so, tutte le cose, il cappotto, che per avere qualcosa da mangiare. Addirittura alla fine prende la fisarmonica del figlio e dice: no, tu mi devi scusare, io te la prendo. E poi dopo la recupera, insomma, vabbè, per chi ha visto il film. Comunque, in realtà, a livello invece più legislativo, paradossalmente la prima legge sull'usura è del 1996, quindi molto tardi. Nel codice Zanardelli 1889 non c'è nulla che protegge l'usurato. Assolutamente non era chiaro. E come si è arrivata a questa legge? È stata una serie di eventi, in particolare, lo sai com'è, Rosanna, ci vuole sempre la bomba, l'evento mediatico che spinge. C'è stato il suicidio di due coniugi che avevano aperto un parco naturale, acquatico, animale, insomma di tutto, e poi a un certo punto un po' è andato male, si erano veramente indebitati e si sono suicidati. Insomma, questo insieme ad altre tante altre storie, la gente che ha cominciato a denunciare, cioè denunciare senza legge, no, a far emergere il problema, e c'è stato un grandissimo boom mediatico tramite un treno che ha percorso l'Italia da Milano a, credo, Palermo, durante una settimana penso, e ha ospitato personaggi politici eccetera, e all'interno si faceva tanta pubblicità, se ne parlava, tanti sono stati gli articoli che sono stati scritti, e fino a che successivamente, insomma, hanno anche instaurato un finto treno a Roma, a Palazzo Chigi, per ricordare questo evento, fino a che finalmente c'è stata questa legge nel 1996. Mamma mia, sì. Veramente recente. Questo anche tanto grazie a tante imprese, l'associazionismo, quindi ricordiamo che quando avete un problema anche se non è l'usura, in generale l'associazionismo, quindi mettersi insieme agli altri aiuta veramente tanto. E volevo per esempio ricordare l'SOS Impresa ad opera della Confesercenti, dove Libero Grassi era uno di casa, insomma, che... Sì. Prego, prego. Effettivamente questo della, cioè soprattutto parlarne, perché probabilmente molte cose rimangono, diciamo, rimangono al di fuori, perché chi è sfruttato, chi è soggetto a queste così, a questi trattamenti, ovviamente non viene fuori, ha talmente paura, però appunto bisognerebbe cominciare proprio da quello, dal superare la paura e parlarne. E per esempio Giovanni Falcone dice: nonostante le organizzazioni criminali siano divenute ormai qualcosa di profondamente diverso e più grave, non abbiamo ancora adottato idonee strategie di contrasto. E ovviamente questo è precedente al 96, però insomma probabilmente la strategia è appunto l'associazionismo. E diciamo che un altro aspetto importante secondo me è quello del cambiamento un po' economico, soprattutto, vabbè, cioè è sempre stato questo fenomeno dell'usura, ma ultimamente quello che si è notato è che con il consumismo c'è addirittura un utilizzo dei prestiti per beni molto superficiali, sì, non indispensabili, sì. Non si parla più del mutuo della casa, ma insomma della barca magari, della vacanza, del matrimonio della figlia, certo. Eccetera eccetera, il televisore a 57 pollici, perché sennò quello più piccolo fa una brutta figura se ci vengono a trovare, certo. E quindi sicuramente non è solo questo, perché l'abbiamo appena detto, c'erano i sumeri, non c'avevano il televisore, eppure erano vittime di prestiti, però insomma gioca tanto. E per contrapporre, come dicevo, il racket invece è tutto un altro meccanismo. Ma il racket invece è un fenomeno più recente o a parità dell'usura è un fenomeno che risale, che ne so, agli antichi babilonesi? No, come dici tu è molto più recente, tant'è vero che a livello di letteratura o citazioni varie ed eventuali ce ne sono molte poche. È un fenomeno legato a una parte dell'Italia e non è un fenomeno nazionale, contrariamente voglio dire a quello dell'usura, che è molto più generale. Sì. E, quindi racket e pizzo sono sinonimi, forse racket sarà inglese e pizzo... Credo di sì, cioè se qualcuno sa spiegarmi meglio la differenza, io non l'ho trovata, credo che i due termini coincidano. E appunto c'è il libro appunto di questo Tano Grasso che si chiama proprio Upizu, e dove spiega proprio veramente le persone che ha conosciuto in questa sua associazione e come le aiutava, casi veramente che ha visto con i suoi occhi. Cosa volevo dire? Appunto che il racket è qualcosa di differentemente legato al territorio, quello dell'usura un po' più misto con i colletti bianchi, le banche, c'è qualcosa di molto più colluso, dove c'è più strana la provenienza, mentre il racket è chiaramente criminale, organizzazioni criminali. Legato alla mafia, alla camorra, insomma. Esatto, sì. Va bene, allora senti... mi piacerebbe ascoltare un po' in dettaglio anche come hai realizzato questo studio, per far capire che appunto poi le informazioni uno le va a cercare sul territorio, però proporrei di ascoltare un altro brano musicale prima, se sei d'accordo. Ma mi chiedi sempre l'accordo, Rosana, tu sei la boss. Sì, lo so, decido tutto decidere. Io, faccio finta di essere democratica però. Dai, come si dice qui, ti faccio fiducia. Va bene, allora rimanete sintonizzati naturalmente con I Colori dell'Anima, sono le 21:37, abbiamo ancora qualche minuto per stare con voi e parlare quindi di usura e racket, fra pochi minuti. Allora ritorniamo, siamo naturalmente su Radio Alma 101.9 con I Colori dell'Anima, stiamo parlando di usura e racket e tu Sonia avevi una domanda per Carla, giusto? È veggente, ho già constatato. Sì, me l'ha detto durante la musica. che avevi una domanda, prego. Certo, vai. Mi veniva in mente quali fossero stati magari i criteri di selezione della popolazione oggetto dello studio. Eccola, eccola la domanda cattiva. No, allora, per quanto riguarda i 300 questionari, quindi quelli nelle famose tre zone, fredda, tiepida e calda, sono state, appunto, abbiamo deciso quali erano i territori e poi a tabula rasa abbiamo un po' visto chi ce li ridava questi questionari, perché non è stato facile, appunto, come dicevo, c'erano chi poi inventava le scuse più impossibili, più improbabili per non ridarci i questionari e quindi, insomma, su quelle zone chi ce l'ha ridati erano i nostri soggetti presi in esame. Invece, se per i più attenti, io ho parlato di 305 questionari e i 5 erano coloro che avevano denunciato, e sono 4 che avevano denunciato racket e uno solo che aveva denunciato usura. E tra l'altro lo ricordo veramente, veramente quello l'usurato, lo ricordo con molto, molto, molto affetto. Veramente mi ha proprio fatto capire in maniera molto molto chiara qual era la differenza tra i due profili di vittima. Quell'usurato prendeva psicofarmaci, era tutto rosso, due scocche rosse in faccia, tutto agitato, sudato, cioè stretto la mano, era agitatissimo, ansioso, molto piegato su lui stesso. Addirittura, adesso non ricordo i dettagli, ma mi sembra che addirittura il prestito era tipo per un supermercato che aveva con la moglie e di cui si era impossessato questo usuraio dopo che l'avevano aperto con i soldi del regalo di matrimonio. Cioè, questo mi ha spezzato il cuore, non me lo scorderò, proprio è stato brutto da sentire. Mentre le vittime di racket erano proprio, come dire, mezzi poliziotti, autopoliziotti, erano quelli proprio che andavano alla guerra, no? Che sviluppavano metodi per incastrare i loro estorsori, mettevano registratori, chiamavano la polizia, cercavano di fare agguati, erano proprio persone caratterialmente diverse. Ne abbiamo conosciuto uno di una fabbrica di materassi a Caserta, che poi tra l'altro più tardi ho saputo che gli avevano rincendiato la fabbrica, vabbè. Io lo chiamerei un figlio entrocchia, cioè era proprio uno che c'aveva il pepe e voilà, quindi una chiara opposizione di caratteri. Io mi vedo tipo circondata da persone che mi fanno domande con la mano alzata. Prego, chi è il prossimo? chi vince il premio timidezza? Ecco, dai, ce l'abbiamo, Marisa. Sì, io volevo chiedere se queste denunce erano solo rivolte a voi, cioè queste proprio denunce, dichiarare cosa pensavano di questi fenomeni, oppure è stato rivolte alle forze alla polizia. Noi abbiamo contattato questa nostra professoressa, questa docente, era in buoni rapporti con la polizia, perché lei, essendo una psicologa sociale, si interessava anche di abusi, andava spesso in tribunale, curava delle come si dice, pratiche di perizie di vario tipo, quindi era in buoni rapporti con la polizia e attraverso di lei abbiamo avuto accesso a queste denunce. Allora, quindi praticamente vi siete divisi il territorio in tre zone, ma che avete fatto? Che ognuna di voi ha fatto una alla calda, una alla fredda, sì, o no? Sì, sì, sì, sì. Ho capito, non è che ognuna di voi ha fatto un pezzetto di... No, io ero tiepida. Tu eri tiepida, tu stavi in mezzo, quindi sì, va sì, bene. Sì, sì, sì. E così, l'esperienza, diciamo, che ti ha colpito di più consegnando questi questionari, qual è stata? Dici, che ne so, un incontro che hai fatto tu... che ti ha colpito molto per qualsiasi motivo. Allora, uno appunto è di questo signore qui usurato, e poi un altro è stato appunto di una signora che c'aveva di una nota noto mobilificio a Caserta, Viappia, però ce ne sono tanti, quindi io così resto vaga, e ci ha detto che il figlio l'aveva preso il questionario, l'aveva fatto a pezzettini, insomma, però era molto chiaro che non ne voleva un altro. Beh, certo. Sì, e poi per esempio mi ricordo che c'è stata un'attività commerciale molto piccola di pittura, che pure poi alla fine ci ha consigliato consegnato questo questionario, poi ho visto, i questionari erano anonimi, però ecco, quando li prendevo, diciamo, ovviamente non so scema, me li vado a vedere, soprattutto se in una strada me ne danno solo uno, io so chi me l'ha dato, e quindi ecco, era veramente un negozio piccolo, là mi sono detto, oddio, anche sto poveraccio, e quindi questo mi ha sbalordito, perché andava un pochettino contro il resto dei dati, dove quanto più era piccola l'azienda, meno era probabile che fossero vittime di estorsione. Mm-hmm. Quindi c'erano, c'è anche questi anche casi, insomma, di negozi piccoli. Qualche eccezione c'è sempre, sì. Era un piccolo negozio di pittura e tappezzeria. Mm-hmm. Ho capito. I negozi comunque erano decisi all'inizio della tesi, non sei andata in un negozio qualsiasi, sì, di no, una certa strada. Erano decise solo le strade. Ah, le strade, e quindi poi i negozi li sceglievi tu. Sì, c'era proprio, perdevi le ore perché tante hanno da fare, e tu andavi pagine. Non su appuntamento, andavi direttamente, no, al negozio. Assolutamente. Spiegavi chi eri, cosa facevi, insomma, magari già qualcuno cominciava a essere infastidito perché, certo, insomma, gli facevi perdere tempo invece di essere andata a comprare, che ne so, il letto o il materasso, per dire, ti mettevi a spiegare che eri una studentessa. Sì, in realtà sai che c'è, io mi chiedo, non ho esibito nessun cartellino, perché sì, all'università, secondo l'università di Caserta non abbiamo cartellini, quindi io potevi, sarei potuta potevi portare essere, il libretto universitario. Sì, lo portavo, però nessuno mi chiedeva niente. Uh-huh. E mi chiedo, a volte forse c'è stato anche l'eccesso opposto, cioè io mi dico, capito, di grande fiducia. Se avessi avuto io un'attività, ma l'avrei riempito veramente questo questionario. Uh-huh. C'erano anche tante domande molto generiche sul tipo di attività, da quanti anni era aperta, uh-huh, eccetera, quanti... Uh-huh. Quanti impiegati, oddio, pure questa potrebbe essere una domanda delicata, in nero, in bianco, mm-hmm, mi sa. Sì. Però insomma c'erano anche domande un po' più delicate. Però la domanda diretta se la persona era stata vittima di usura o di racket la facevi nel questionario? Non credo, o sì? Sì, in qualche modo sì, non proprio così diretta, sì, ma... Mm-hmm. O forse sì, a un certo punto poi c'era anche sì una famosa domanda un po' più diretta. Ma quello che abbiamo capito è che la zona, quanto più la zona, che è abbastanza intuibile, però quanto più la zona è colpita, più le idee rispetto ai fenomeni sono chiari. Per esempio nella zona fredda e nella zona tiepida, nel momento in cui, che ne so, si chiede quale potrebbe essere il profilo di l'usuraio piuttosto che quello dell'estorsore, o comunque quando si chiedono caratteristiche generali, le percentuali sono molto divise alla cazzo, ma sono molto così varie, perché le persone probabilmente non hanno un'idea molto definita. Quando invece sei nella zona calda, che è la zona più toccata, e la vedi che le idee sono molto più chiare, perché probabilmente il tipo l'hanno visto, hanno visto che ho capito. Per esempio, quello che siamo andati anche a vedere è stata la come si presentano, quante persone. Si è, uh-huh, visto che nella maggior parte dei casi sia l'usuraio che il sorsore va a due. Uh-huh. Però mentre allora, da solo quasi mai, si può andare anche a tre, però mi sembra nell'usura non ci sono mai donne. Uh-huh. Nella criminalità addirittura c'era... Uh-huh. Sì, c'è il prestanome, tutta una serie di... Uh-huh. Di funzioni diverse, no? L'età è quella tra i fine 20, quindi diciamo 30 fino ai 60. Ovviamente tu dici, vabbè, un'età abbastanza vasta, però insomma, sia nella prima categoria che nella seconda si trova sia il sesso, la quantità di persone e l'età media. E abbiamo utilizzato come concetti statistici, di cui assolutamente adesso non ricordo la tecnica, il significato. Abbiamo usato il Q4, l'analisi della varianza, l'analisi delle frequenze. Ma Rosanna, ho dimenticato assolutamente cosa sì, siano. E il tutto in quanto tempo l'avete fatto? Un anno. Sì. Uh-huh. Quindi un anno in cui ognuna di voi con la propria macchina. Sì, si è fatta. Rischiavate anche che la macchina non la ritrovavate? Ma no, no, vi siete, non eravate così. Meglio non pensarci. No, vabbè, certo, però comunque no. Rischiavate di andare a dare fastidio ad un equilibrio, soprattutto mi immagino nella zona calda, magari forse non tanto in quella fredda o tiepida. Ma insomma, è stata una cosa lunga. E quindi poi nella tesi, come ve la siete divisa tra voi? No, ognuno ha discusso una parte del lavoro fatto. Sì, perché poi alla fine di questi questionari, attraverso dei concetti di statistica, in base a come sono poste le domande, alle variabili, insomma, varie cose, puoi scegliere cosa analizzare, con quali concetti, chi quadro, appunto, analisi della varianza, eccetera. E ognuno ha, come dire, studiato come dire, i commenti di alcuni tipi di analisi statistica e ha fatto le sue conclusioni. Magari, per esempio, a me piaceva tanto la parte storica dell'usura, l'ho approfondita di più. Ho trovato uno studio che avevano fatto a Roma già sul profilo dei due usuraio e estorsore. Quindi io ho analizzato anche una parte letteraria, mentre le mie due colleghe non so cosa abbiano fatto, ma hanno fatto altro. Ho capito. E alla fine, appunto, tra le conclusioni, come dicevi prima, che ne so, cioè è stata fatta una l'età dell'usuraio, oppure altre, il sesso, non so, sono state tratte una serie di conclusioni. Altre osservazioni che avete fatto? Allora, che la maggior parte ovviamente sono intimidazioni via estorsione, e raramente sono più rare, per esempio, atti, come dire, concreti, cioè violenze fisiche, eccetera, sono molto molto molto basse. Penso che ne abbiamo dette parecchie, adesso ho un vuoto, sì. Però che cos'altro? Allora, fondamentalmente le ipotesi fondamentali sono state abbastanza provate, quindi che la zona non era un cliché, quella che noi avevamo chiamato calda, fredda e tiepida, non erano cliché, ma erano effettivamente così, che l'essere toccati da un fenomeno fa sì che lo conosci meglio, che le aziende più grandi sono, più lo sono colpite, e che una cosa che mi ha colpito molto, cioè che le persone soggette a usura, che sono delle persone instabili, probabilmente con gravi problemi anche psicologici, proprio perché sono sottoposti a pressione da parte di chi... Sì, quello che è duro da dire, insomma, è che loro hanno una parte, cioè la differenza tra chi denuncia ed è vittima di un racket, sì, se ne può quasi vantare, sì, nel senso che può essere fiero di aver compiuto un gesto, certo. Non dico nobile, però insomma afferma una certa forza, un certo carattere, mentre quello che è vittimo di usura è un po', si vergogna, insomma, perché il mondo è un fallimento, sono state decisioni scelte un po' con leggerezza, non ha valutato le conseguenze, magari nel frattempo si è giocato la casa, la macchina, magari anche la moglie nel frattempo che si è arrabbiata, insomma, c'è una bella differenza. Va bene, allora, siccome siamo in fine di trasmissione, io vorrei salutare, comincerei prima dalle ospiti, allora da Titandra. Ciao a tutti e buonanotte. Sei stata contenta di venire in radio? Molto, grazie. Grazie a te di essere venuta. Ringrazio anche Marisa. Grazie a te. Un bacio a tutti. Spero che tornerai a Bruxelles in radio. Speriamo presto. E grazie a Sonia. Grazie a voi. Come ti sembra la voce in radio, la tua voce? Ti piace? Strana, diversa. E ovviamente grazie a Carla, che ritroverete su I Colori dell'Anima l'ultimo lunedì di marzo, giusto? Sì. Con Angelo e Giampaolo. Grazie mille di essere venuta. Grazie a te di avermi invitato e insomma mi ha fatto piacere riparlarne, perché sono passati 6 anni da questa ricerca. È ancora attuale, ovviamente. Sì, è ancora attuale, è stato frutto comunque di un anno di ricerca. Saluto le mie colleghe, Angela e Francesca, e grazie di aver fatto questo lavoro con me, è stato un bell'anno. E buonasera a tutti da Rosanna, ciao. Oggi di che cosa? colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima.